Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quasi un prodotto su cinque nel nostro carrello della spesa è un prodotto a marca del distributore, i prodotti cioè con il brand dell'insegna, del supermercato in cui li compriamo. Sono prodotti ormai familiari nella lista della spesa di molti di noi, nati come prodotti dal prezzo contenuto alternativi alle grandi marche, hanno subito una profonda trasformazione in questi anni, quella che racconta l'evento di riferimento per il settore. Che cosa rende uno spot cliccabile, desiderabile, diciamo così, online mentre cerchiamo, siamo in attesa del contenuto che abbiamo richiesto? Lo rivela la classifica degli spot di maggior successo su YouTube. E poi spazio al ricordo, all'omaggio per un grande protagonista del design scomparso di recente, tedesco, una vita passata in Italia, ha disegnato oggetti diventati icone, entrati nella quotidianità di molti di noi, Richard Sapper. Infine focus sui trend dedicato alle tendenze per la moda maschile. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Mi manca un chilo di pace integrale. Italiani su 10 riempiono metà del carrello della spesa con le cosiddette private label, i prodotti a marca del distributore, che hanno ormai superato la quota di mercato del 18%. Il prezzo, la convenienza non è più l'unica leva d'acquisto per questi prodotti, che coprono ormai tutte le categorie, dalla pasta ai detersivi. E alle linee primo prezzo, per così dire, hanno aggiunto le linee premium, quelle bio, con i prodotti che costano di più in alcuni casi dei concorrenti griffati, linee che tra l'altro registrano crescite di vendita significative. Questi prodotti, la loro storia e il loro percorso nella lista della spesa, diciamo così, rispecchiano molto bene il cambiamento delle abitudini d'acquisto di questi ultimi anni, e ogni anno un evento che si chiama Marca ce lo racconta. L'edizione 2016 si è appena chiusa a Bologna, ne abbiamo parlato con Francesco Pugliese, presidente di ADM, Associazione della Distribuzione Moderna. C'è da dire che nelle scelte d'acquisto oramai davvero il 74% dei consumatori comunque si avvicina a questi prodotti. Si avvicina a questi prodotti e oramai non è più un avvicinamento, ma è un consumo che è diventato continuativo. La quota di mercato della marca commerciale, come ben ha detto lei, è oramai arrivata al 18% del totale delle vendite della grande distribuzione, e abbiamo delle organizzazioni associate a noi che hanno dei dati che sono superiori, perché questo 18% è la media generale del mercato, ma è fatta da chi è al 12% e chi è al 27-25%. Il punto vero di contatto per le persone che vengono a fare la spesa è il punto di vendita, e la distribuzione più e prima di altri riesce a cogliere meglio quelli che sono i trend. Le faccio alcuni esempi. Se penso alle innovazioni vere che ci sono state negli ultimi anni, penso soprattutto a due categorie che oggi sono nell'uso ricorrente, ma che non lo erano fino a 5 anni fa, e parlo di tutti quei salumi che sono in vaschetto, il take away, che garantiscono la qualità come il prodotto appena affettato ed è finito in vaschetta. Questa è un'innovazione che ha fatto il prodotto di marca commerciale. C'era questa esigenza di agire in una riduzione dello spreco, di mantenere conservabilità del prodotto nel tempo e quindi poterlo comprare e utilizzarlo anche nei giorni successivi a quando si compra. Questo l'ha fatto la distribuzione. Le insalate in busta di quarta gamma, che oggi rappresentano gran parte delle vendite, che hanno agito anche loro in un'ottica di riduzione degli sprechi e di conservabilità del prodotto, e quindi anche un impatto su quelli che sono i costi, è stata un'innovazione della grande distribuzione che ha spinto queste imprese a farle, prima ancora delle imprese di marca che ci stanno arrivando solo adesso. Ho fatto due esempi, ma ne potrei fare tanti altri. Oggi c'è un trend che è molto sentito da parte della gente, che è quello dei prodotti biologici, piuttosto che dei prodotti senza glutine. i leader di mercato nelle catene della grande distribuzione sono i prodotti di marca commerciale su queste linee e continuano a crescere. C'è una grande attenzione nelle produzioni gourmet e quindi nel DOP e nell'IGP. E anche su questo fronte i prodotti di marca commerciali con le varie linee, che siano esse di imprese come Carrefour, come Coop, come Conad, come Esselunga, hanno brandizzato tutta una serie di prodotti di questa tradizione, portandoli al palcoscenico dell'intera nazione, non solo del territorio di loro provenienza. E tutto questo ha dato linfa alle imprese di produzione che producono per la marca commerciale, ma soprattutto ha risposto ad un bisogno che c'è da parte del consumatore di innovazione, di ricerca, di possibilità di trovare questi prodotti anche fuori dei luoghi di origine, parlando appunto di questi che vanno nell'area del gourmet, in tutta Italia con una garanzia di sicurezza e di qualità, nonché di prezzo che altri non fornivano. Quindi questo per dire che oggi la marca del distributore è davvero una marca. Vent'anni di noi, di Vodafone Italia, lo sentite in sottofondo, lo spot più popolare su YouTube Italia nel 2015, la storia di un SMS e di una storia d'amore finita 20 anni prima, ha conquistato il primo posto della classifica che la piattaforma rende nota ogni anno. A seguire c'è Alfa Romeo Giulia e la campagna Love Has No Labels contro i pregiudizi. Che cosa li accomuna? Qual è il segreto dietro ai click di un contenuto pubblicitario in rete? Lo abbiamo chiesto a Silvia Barbieri, Head of Strategy di Future Brand. Direi che sia importante citare molto velocemente qual è la meccanica fondamentale della pubblicità, che lavora ovviamente su bisogni che possono essere consapevoli o a volte inconsapevoli, e anche molto sulla sintonia e l'empatia valoriale ed emotiva. Direi che oggi viviamo tutti immersi in un sentiment forte di insicurezza internazionale, economica, lavorativa, culturale. Questi tre spot credo che, come quasi per controbilanciare, facciano leva su un bisogno crescente di appartenenza, bisogno di sostanza, nostalgia, il tema della nostalgia è molto potente, e anche quello delle certezze. Credo che il ritorno di Alfa faccia piacere a tutti perché genera orgoglio, è una certezza nostalgica che ritorna nella vita di tutti. Stesso tema quello ovviamente di Vodafone, che lavora molto bene sulla nostalgia. Peraltro, scendendo nella classifica, c'è un'altra compagnia telefonica che è Wind, che di nuovo lavora anche lei sul tema della nostalgia e di un mondo a cui guardiamo perché ci sembra più semplice, almeno è così nei nostri ricordi. Stiamo assistendo al grande boom degli ad blocker, i servizi che bloccano la pubblicità sulle pagine web. Chi fa contenuti pubblicitari, chi strategicamente, insomma, decide anche la presenza pubblicitaria sui vari media online, si sta interrogando su questo, e se sì, come, in termini di maggiore qualità del contenuto, in termini di maggiore e migliore fruizione del contenuto online? Credo che ci siano due grandi tematiche. La tematica ovviamente del contenuto: se il contenuto viene ritenuto di valore, e poi nel concetto di valore entrano tante dimensioni, il valore può essere dato dall'entertainment, il valore può essere dato dalla sorpresa di una comunicazione intelligente o dall'utilità di una comunicazione intelligente. Ovviamente se quello che viene comunicato ha per me ricevente valore, ho come dire, una disponibilità a seguire e a farmi coinvolgere. Se non è così è molto più difficile. Un'altra tematica estremamente importante, tanto più lo è sempre stato, ma credo che il mondo digitale abbia reso questa domanda ancora più urgente, è chiedersi ogni volta che si fa comunicazione se quel mio messaggio arriverà al ricevente in un momento in cui lui è disposto a riceverlo. e quindi anche un approfondimento di quella che può essere la coerenza intrinseca tra il media usato, e oggi il media usato può essere qualunque cosa, cioè c'è una moltiplicazione di veicoli di comunicazione, dal biglietto, non so, per prendere la metropolitana, a di nuovo tutta l'area del digitale. Mi devo chiedere se quello che sto comunicando è appropriato, che raggiunga il mio pubblico in quel preciso momento. Ha vinto 11 compassi d'oro, il massimo riconoscimento nel mondo del design, compreso quello alla carriera. Ci ha tenuto compagnia con oggetti diventati specchio di un'epoca. Parliamo di Richard Sapper, scomparso lo scorso 31 dicembre all'età di 83 anni. Lo ricordiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Io sono un completo nemico della forma per la forma. Per me la forma è una conseguenza di una vita interiore che deve avere un oggetto. Parole di Richard Sapper dall'archivio Alessi, il grande designer tedesco ha firmato oggetti entrati nella quotidianità di molti di noi, dalle lampade Tizio per Artemide alla caffettiera e al bollettore Alessi, passando per il mitico televisore Brion Vega, il telefono Grillo per Siemens. Oggetti specchio di un'epoca, ormai parte dell'immaginario collettivo. Li abbiamo ricordati con Stefano Caggiano, critico del design, autore di Linguaggi del design. Sapper è un designer che ha arredato il panorama di una società, la società italiana e non solo, e ha arredato l'evoluzione culturale di questa società nel tempo, durante il periodo dello sviluppo, dagli anni 60 e poi 70, fino ad oggi, fino ad anni recenti. I suoi progetti più recenti riguardavano computer portatili. In particolare è interessante notare come nel lavoro di Sapper si lega l'evoluzione dei linguaggi del design attraverso i vari decenni. Per esempio negli anni 60, assieme a Zanuso, realizzano tra i progetti più importanti e più iconici di quel design che sperimentava con grande entusiasmo e curiosità le nuove possibilità introdotte dai materiali plastici, quindi progetti come la seggiolina per carte interamente in materiale polimerico, prima sedia impilabile, che è una specie di mattoncino Lego con cui comporre strutture in maniera creativa. Di quegli stessi anni, quello stesso decennio, è il telefono Grillo, il primo telefono con cerniera pieghevole, che quindi anticipa di alcuni decenni quelli che sarebbero poi stati i telefoni a conchiglia, i cellulari a conchiglia. E naturalmente la radio cubo, la cosiddetta radio cubo, non si può non menzionare, per Brion Vega, sempre con Zanuso, questo cubo con spigoli arrotondati, colorato all'esterno, che si apre per rivelare un'interfaccia e una cassa. La lampada Tizio, forse il pezzo più famoso di Sapper, un gioco di pesi e contrappesi perfettamente bilanciati che servono da conduttori di corrente a bassa tensione, quindi eliminando la presenza dei cavi. In progetti come questi la tecnica, la funzione non viene percepita come contrapposta all'estetica, all'eleganza, ma si fondono perfettamente, e questo è probabilmente l'obiettivo più alto del design, del buon design di qualità: fondere perfettamente la forma e la funzione. Gli ho sentito dire in un'intervista: il tempo è una delle poche cose che possono qualificare la qualità di un oggetto. I suoi oggetti infatti sono sempre attuali. Ecco, quanto questa caratteristica di longevità degli oggetti di design conta? Il buon design dovrebbe sempre sopportare la durata, il tempo, non dovrebbe essere mai, salvo casi eccezionali, troppo ancorato alla contingenza. Focus sui trend. Nella settimana di Pitti Uomo e Milano Moda Uomo non potevamo che dedicare il focus sui trend alle nuove tendenze della moda maschile. Ci siamo concentrati su Firenze. A Milano la manifestazione è ancora in corso. Allora ci facciamo raccontare tutto da Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Allora, partiamo dai fondamentali, per così dire. Quali sono le novità, che cosa si è visto in termini di tessuti, colori e forme dei capi che troveremo nei negozi nei prossimi mesi? Allora, si sono visti sicuramente tantissimi tessuti molto leggeri. Ad esempio, un oggetto che sicuramente sarà molto popolare nelle prossime stagioni sarà il cappotto, addirittura il paltò, quindi un capo anche della memoria, se vuoi, però molto leggeri. Addirittura abbiamo visto dei cappotti realizzati in pile, quindi dei cappotti che sono praticamente delle vestaglie, molto leggeri. Questa idea di leggerezza la troviamo anche negli accessori, come ad esempio delle cravatte molto destrutturate che sembrano quasi dei foulard, di sete leggerissime. Quindi insomma anche delle ispirazioni magari più orientali, con delle fantasie cashmere molto molto belle. Per quello che riguarda i tessuti si sono visti moltissimi scozzesi, moltissimi check, moltissimi quadri, moltissime righe, in colori molto sofisticati, un po' autunnali, se vogliamo fare una battuta, 50 sfumature di marrone e 100 sfumature di verde, proprio colori, colori molto terrosi, ispirazioni che possono essere Liberty, ispirazioni fine secolo, oppure anche un po' da campagna inglese. Insomma, si sono visti molti abiti che sarebbero stati perfetti ad esempio sul set di Downton Abbey. Citavi poco fa l'Oriente, ti vorrei fare questa domanda: nella moda femminile ha fatto molto notizia la collezione disegnata da Dolce & Gabbana per le donne musulmane, anche nella moda maschile ci sono segnali di multiculturalismo, comunque di apertura, di attenzione a nuovi clienti, nuovi mercati? Allora, da quello che si è visto al Pitti non è emerso con chiarezza. Sicuramente ci sono delle ispirazioni internazionali, ad esempio si sono visti molti pantaloni, se vogliamo, alla turca, con delle proporzioni che sono poco europee e, se vogliamo, più medio orientali, quindi pantaloni molto corti, con delle forme molto ampie, con un cavallo molto basso, quindi insomma con delle proporzioni che diciamo non siamo abituati a vedere nella tradizione europea. E andando dall'altra parte del mondo, invece, un'ispirazione molto americana, quindi moltissimo jeans, veramente tanto jeans, con uno stile, se vogliamo, molto raffinato ma poco delicato, un po' da esploratore dei boschi, se vogliamo. Ecco, arriviamo dall'era degli hipster, poi si è parlato di yaki, adesso insomma il modello maschile di riferimento oggi qual è, o perlomeno che stile ha? Beh, guarda, una cosa di cui abbiamo parlato molto e abbiamo visto parecchio in giro, questa sorta di nuovo dandy un po' rude. Questo stile un po' grezzo rimanda molto a una ricerca di autenticità, quindi un'affettazione che non sia quella del dandy un po' artificiale, ma che sia di un uomo curato, ma non necessariamente rigido, addirittura non necessariamente magro, perché insomma anche si sono viste delle forme molto generose, molto abbondanti. Ah beh, quindi anche il curvy arriva nella moda maschile, finalmente. Esattamente, esattamente. Per gli accessori, Paolo, cosa possiamo dire? La borsa maschile ormai è sdoganata? Sì, sì, borse tantissime, dalla 24 ore più lineare, più classica, ma anche più delle borse un po' da postino o un po' da vecchio dottore, sempre con questi materiale, un cuoio magari un po' rovinato, un po' grezzo, ma si sono viste anche moltissimi esperimenti molto interessanti a livelli proprio di design, anche proprio di funzionalità. Borse che si aprono un po' come se fossero dei pacchetti di sigarette, molto rigide, però nello stesso tempo anche estremamente pieghevoli, quindi una borsa che molto capiente, che puoi usare e poi riporre molto rapidamente. Un po' torniamo al discorso iniziale che abbiamo fatto, proprio della facilità di trasformazione, che possa essere per la città, che possa essere per il viaggio, che possa essere per il weekend, però sempre questa dimensione, se vogliamo, un po' fluida, nella quale è molto facile passare da uno stile all'altro o da una dimensione all'altra. Vorrei chiudere su un aspetto, l'effetto social, perché anche al Pitti, grande macchina social in azione, c'è però chi inizia un po', come dire, a metterne in discussione l'efficacia. Ad esempio, alla settimana della moda di New York si è detto bisogna ripensare questa macchina perché tutti i contenuti così presenti, così postati sui social inducono poi il cliente, il consumatore, ad andare a cercare subito nei negozi quello che invece arriverà solo dopo mesi. Quindi c'è chi dice: ma le sfilate facciamole sulla moda già nei negozi, così che anche, per dire, le catene fast fashion non abbiano tutto questo tempo per copiarci. Ecco, questo tema sull'efficacia o meno della macchina social c'era? Sì. Se ne è parlato parecchio e si sono visti anche dei fenomeni che purtroppo rischiano di diventare una distrazione più che una vera e propria comunicazione. Al di fuori dei padiglioni, dove si vede il lavoro di mesi e mesi da parte di aziende di tutto il mondo, si trovano persone e personaggi che un po' si travestono più che vestirsi, e non è la realtà che poi vediamo nelle strade, la realtà che vediamo nei negozi, la realtà che vende. Per cui ecco, l'abuso di uno strumento potente come quello dei social network rischia delle volte di sviare. Diventa un po' difficile per le aziende a volte riuscire ad essere efficaci e mirati e selezionare il contenuto. Accorciare la filiera di produzione potrebbe essere sicuramente una soluzione, ma anche quella magari di stabilire delle partnership di senso. L'hanno fatto già diverse aziende, ad esempio collaborando con degli influencer della dimensione appunto dei social network, che portano anche del contenuto, non solo della visibilità. Ad esempio Scott Schumann, The Sartorialist, certo, che insomma ormai è famoso a livello internazionale, ha presentato più di una collaborazione al Pitti. Grazie a Paolo Ferrarini, alla prossima Paolo. Grazie a voi, a presto. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Grazie Maria Luisa e buonasera a tutti gli ascoltatori. Quale tema hai scelto per questa sera? Ma per stasera pensavo che sia inevitabile una riflessione, un ragionamento un po' più sociologico sull'enorme successo di Checco Zalone, del suo film che è diventato il più visto di tutti i tempi. Ecco, quindi mi piacerebbe approfondire anche i motivi di questo successo. Molti critici si sono spesi per lui, altri si sono interrogati, e di fatto insomma anche negli ambienti intellettuali più insospettabili ha fatto breccia Zalone. Ha fatto breccia perché segna una differenza sicuramente con la categoria dei cinepanettoni, no? All'italiana. I cinepanettoni sono tra l'altro in grande declino, hanno avuto anche quest'anno comunque dei risultati deludenti, perché il cinepanettone è tendenzialmente compiacente e non è ironico, mentre invece Checco Zalone, da bravissimo imitatore, perché lui non è una maschera come Sordi, come Verdone, cioè lui nasce come imitatore, quindi ha una capacità di lettura dei fenomeni e quindi dell'italianità che è molto trasversale, tra l'altro. Quindi credo che questi siano alcuni dei motivi di questo grande successo. I grandi successi cinematografici finiscono poi in qualche modo col dettare la linea, diciamo così, anche nella comunicazione commerciale, perché poi gli spot riprendono lo stile, il racconto, altri colori, le ambientazioni dei film di successo dell'anno. Ecco, in che termini credi che Quo Vado darà la linea? Allora, intanto una capacità anche di linguaggio a partire dal titolo. Quo Vado è chiaramente un riferimento colto, diciamo Quo Vadis, ma anche molto pop al Quo Vadis e quindi ai grandi film degli anni 50-60. E poi questa capacità di leggere anche nei dettagli e quindi un'indicazione ad esempio per il mondo pubblicitario di riuscire a essere ironici e intelligenti nello stesso tempo. Credo che questa capacità che lui ha di intercettare la vita quotidiana, l'intelligenza personale in modo semplice ma mai banale debba essere davvero anche rilanciata in pubblicità. Grazie a Francesco Moracci, alla prossima. Grazie a te Maria Luisa. E grazie anche in regia a Valeria Bernardi. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.